troppo sanguinosa, Tore Giuliano ingeva qualche brisa di una bontà gentile e generosa, dalla sua fama fino in cielo isa, e si parava andala con caloro, de lo so coro buono tutta coro. Trattava come fratessoro, mentre era con le ricche tanto fero, e sparteva denari in quante dati, ad orfane di vedove e malati. Voi lo cibo tanto desiati, e c'è con navassai quasi squisiti, a dirci le vai in socco mangiati, e le regalo a voi che fama viti, dicia Giuliano che beneficava, e mangiare e denare ci portava, e come un giustiziere predicava, di giudice e carnifici faceva, o delle poverette approfittava, la sua condanna sicura l'aveva. E la giustizia so per primo prova un giochiere chiamato Terranova, che succe via frumento pasta d'ova, e con l'ussura a credito veniva, azzeccando così pungente chiova alle cliente povere che aveva, e guadagnando l'umile per cento quando veniva un chilo di frumento, quando sappe sto fatto un da momento. Tore Giuliano ci fece lo conto, trascina un piazza senza stento, e la sentenza ci legge a giopondo, poi quando una preghiera recitavo, con le sue mani lo giustiziavo. A un certo nato di critica rubavo, una vacca un povera se ne dicendo Giuliano mi mannavo, a corpo di pistola lo finivo, e a taglio lo cadavere dei gritti, lasciavo quattro parole chiare scritte. Quattro parole santi e benedetti, arrestato per esempio dei fatti, Giuliano una roba mai l'afflitti, parole ricche sì quando ci ammatti, e cosappio le giù tale biglietto, pensavo che lo so giro era corretto, aver avuto spesso lo difetto di ingannare le gente un gutto, un tale torabate poco corretto. Vinno ammazzato come un parabotto, Tore Giuliano ci fece la festa, con corpo di pistola dalla destra, perché fu una persona disonesta, che essendo ufficiale della posta, s'approfittava con una mossa lesta, sopra certe denare mi senz'osta, e è mannati di gente paesani, immigrati da terra assai lontani. Un giorno che guardava Vaddecchiani, lo so cannocchiale visti in fini, dove c'eri di figli di peggiani che piangevano forte le meschini, Tore Giuliano se ci avvicinavo e conto del due chianto domandavo, un pregante le sorte ne rubavo, una delle carose rispondevo, le sorte che mia madre ne affidavo per accattare la spesa, santo Dio, erano 4.000 rotti liri e non potevamo la potia chiudere, Tore se commuovevo sentendo dire che le caruse avevano a tornare senza la spesa, ecco dispiacere. Paviri ci ha rubato le denari, peccavo la mano da la sua sacchetta e ci desi denare in tutta fretta. Tornata a vostra madre che vi aspetta, e ti tranquilli vi lasciata tutta. La guai a cube fa qualche etichetta, alla pistola mia le metto sotto. E lì dove ci ride se ne ero, sorridente e felice per davvero. La tu che sa c'è fode frate meno, ricca di terri di gioielle e grano. Cagnoni in casa sono niente di meno, davanti ci spunta odore giuliano. Vistuto quelle canze veramente, e con l'aspetto allegre e risolente, cacci vicini in onestamente, osannici la mano da distanti, come si stila già nobili genti, quando la dama si ci sta davanti, ossia tu chi s'amava perdonare, se tu manco mi fece annunciare. E ad allora mi voglio presentare, sogno giuliano e ce lo voglio dire, oh caro amico mio, lo dopo arrari, mi fa davvero un immenso piacere, tuo padre come sta lo generale, do gran simpaticone e geniali, ma no, do che sono un sogno totale, amico che ci paro e me ne dole, io sogno lo brigante tale quale. Dalla così lume destino vuole. Tori Giuliano, un disolo bandito, cercato della legge in ogni sito. Ma non scherzare giovane attardito, non grido un sacco di giarre saluto. Dico la verità e la comprendo, dicendoci perché sogno venuto, venne paviriliccio e le tutti, se non vuole soffrire bene brutti. La duchessa sbattiò l'occhio e chiungutti, e a bianca diventavo come lo latte. Dopo rispose con parole rotte, le mie gioielle non ce l'hai di fatti, sono a Palermo dalla caccia forte, allo sicuro d'ogni brutta sorte. Mi risolta però lo dico forte, le gioielle sono a vostra parte, precisamente a rete di due porte e chiuso in tal locale fatto ad arte. Io invece vi ripeto e vi assicuro che la sunta sta casa, ve lo giuro, e allora me ne vado e non mi curo, però l'avverte e ce lo dico chiaro che le mie gente con lo cuore duro di già le sono nipoti si rubano. E se voscenza non muore più danno, mi dona le gioielle ce le manno. La tu chissà restavo tutta tremano, do parlare da cose tremendo, e s'arrendio di torri allo comando, mentre il cuore soia va piangendo, e lì so per le collane brillanti, finero dalla tasca d'un brigante. C'era in Sicilia un grande movimento, a chi si sviluppava in ogni accanto, era guidato domine d'intento, dice a tutto e privo di ogni scanto, per la Sicilia nostra separare e il nuovo Stato libero formare. però c'era bisogno di lottare, se indipendenza si voleva avere, nascere l'ugna, fare s'ammazzare, con l'arma a mano soffre e patire, e a tale scopo quindi si formava l'esercito che Efesi si chiamava. Ore Giuliano si entusiasmava, l'idea ci parse buona l'accoglio, sulla Sicilia libera pensavo, anda di certo lo destino mio, che ci sarà una ministria sicuro e lo passato si cancella puro. E io non resto un personaggio scuro, divento un pezzo forte per davvero, forse un ministro e la famiglia onoro. E non pregante che non fa lo zero. Ritorno un uomo rispettato e onesto, libero senza maglia presto presto. Pensando che sufficio un manifesto, che lo fece affessare in ogni posto. E fu per tante davvero funesto, di la maniera come fu composto, che Giuliano e Abreu l'arrollamento per rimborsare lo sorreggimento. E soddisfatto fu, ne fu contento, e tanto e tanto ci desero conto, risposero all'invito a cento a cento, per fare regno la Sicilia appunto, con entusiasmo, con coraggio e fidi, perché un bene futuro ognuno guidi, e Giuliano da così si vidi, capo supremo del dirigente e godi, certo è della vittoria e sorridi, sentendo che ci fanno tante lodi, di colonnello veste la divisa, e si dispone più da nuova ambrisa. La lotta cominciava dura e decisa, e sotto la bandiera giallo-rosa, brutto destino, sopra tante pesa, che la morte d'incontro se ci possa. Ma vana fu la lotta a Poromano, lo sogno fatto di Tore Giuliano. Spendivo la battaglia mano a mano, a monte lambo c'è fu un garpongino, sbobbile da un esercito isolano, cala così decise lo destino. E Giuliano sempre sberto d'anca, tagliò la corda e se la fece franca.